nostro programma inizia così, allegro e frizzante. Non ci sono più le mezze stagioni di Roberta Giordano. Adesso vediamo se cominciamo allegri e frizzanti, perché pare che il mio opinionista estemporaneo di oggi si sia addormentato, quindi vediamo se con i cannoni sotto casa riusciamo a risvegliarlo. Intanto però ci siete voi, ascoltatrici e ascoltatori, con le molte notizie della settimana che insieme, come sempre, qui discutiamo a Non ci sono più le mezze stagioni, tutti i sabati dalle 14 alle 15, con il numero verde sempre a vostra disposizione, che è 800 24 00 24, un numero verde quindi non solo gratuito ma anche ecologico, ecologico perché non si spendono soldi e perché evitate di disperdere nell'ambiente le vostre energie, il vostro tempo, i vostri pensieri, convogliateli invece ecologicamente qui a Non ci sono più le mezze stagioni. 800 24 00 24. Quali sono le notizie di questa settimana? Non ve le devo dire, certo, io, è stata una settimana veramente molto intensa e ci aspettano anche momenti di maggiore intensità, se così possiamo dire, domani. Scusate, la voce è quella invernale, la versione invernale della mia voce. Naturalmente sapete, le primarie del PD si vota domani, sono 5 i candidati e ve li ricordo tutti, ormai li sappiamo a memoria, soprattutto i primi 3 in classifica, così come vengono definiti, che sono Bersani, Renzi e Vendola, e poi ci sono Laura Puppato e Bruno Tabacci. Si vota quindi domani. Ho interpellato anche le ascoltatrici e gli ascoltatori sulla pagina Facebook di Non ci sono più le mezze stagioni, anche se sembra, insomma, che gli interventi siano stati più sulle altre primarie, che sono quelle del PDL, probabilmente perché in questo momento sono anche quelle che, diciamo, creano un pochino più di confusione. Ci sono molti candidati, qualcuno che si ritira, qualcuno che si aggiunge all'ultimo, ancora non si definisce bene il quadro. Tra l'altro, notizia di oggi, ma in realtà già qualche analista politico l'aveva già messo ieri sui giornali, parrebbe che Berlusconi stia preparando una sua lista, quindi insomma tutti i contorni continuano a essere piuttosto poco chiari, ecco, per quanto riguarda il PDL. Poi magari, se c'è tempo, andrò a scrutare le vostre riflessioni sulla pagina di Facebook. Ma fra le altre notizie, quindi queste sono le primarie di cui, se volete, parleremo, e se avete voglia anche di dire chi votereste domani, al di là che apparteniate a uno schieramento, a un altro, a un partito, a un movimento, quello che volete, se avete voglia poi di raccontare quali sono anche le vostre previsioni per domani, così senza scommesse, senza soldi, qui si fa tutto gratis. E poi anche sul PDL, quali sono i vostri pensieri. Fra le altre notizie, lo sapete, questo vertice di Bruxelles che c'è stato sul bilancio, e con una frattura praticamente tra nord e sud che c'è stata a Bruxelles, nel senso che, insomma, nulla di fatto, si rimanda al 2013 e si capirà, insomma, che cosa fare, anche se Monti rassicura il fatto che non c'è stato l'accordo sul bilancio non pregiudica nulla, ma insomma è un modo di rassicurare, non è comunque molto positivo. E poi la forte tensione in Medio Oriente, avete sentito di quanti morti, di risposte con bombardamenti da una e dall'altra parte tra palestinesi e israeliani, e adesso sembra che grazie a Stati Uniti, in particolare Hillary Clinton e all'ONU, ci sia almeno una tregua momentanea. Poi vediamo un po' delle primarie, abbiamo parlato, la Sicilia, il neogovernatore, come si dice, preferisco dire il presidente della regione, Rosario Crocetta, ha completato la giunta, e nella sua giunta, fra gli altri, ci sono 7 donne, c'è uno scienziato che è Zichichi, c'è un PM Marino e c'è anche il cantautore, come lo sapete, Franco Battiato, che fa l'assessore al turismo. C'è questo rapimento misterioso del ragionier Spinelli, il cassiere di Berlusconi. Insomma, sono tutti un po' arrovellati a capire bene come si è andata questa cosa. Naturalmente saranno inquirenti poi a decidere, anche se volete parlare di questo tema, delle impressioni che avete avuto di questo fatto piuttosto strano di questa settimana. Poi le proteste a Roma, ci sono gli studenti, la ministra dell'interno Cancellieri è molto attenta alla questione dell'ordine pubblico, ricordando quello che è successo alcuni giorni fa. Certo che ci dicono queste manifestazioni che non sono soltanto problemi di ordine pubblico, ma un problema di tensioni sociali, di impoverimento, di declino economico, di precarietà e di dubbio su quello che sarà il proprio futuro per tutti, e in particolare anche per i giovani. Poi vi ricordo che domani non solo è la giornata delle primarie del PD, ma è anche la giornata internazionale per l'eliminazione delle violenze sulle donne. Sapete che l'Italia ha un triste record, proprio ieri Il Corriere ha fatto due pagine, molto belle, insomma, non è forse l'espressione più opportuna, insomma, due pagine fitte di foto di ragazze, di donne di tutte le età che sono state uccise quest'anno. Per ora siamo a 115, l'anno scorso 127, ma non è ancora finito l'anno, quindi bisognerà vedere poi quale sarà il bilancio. Insomma, una strage vergognosa, indegna, che continua. Finalmente qualcuno comincia a parlarne, non sono solo io l'unica a far la parte della femminista che ritorna ogni puntata su queste cose, e ci sono alcune proposte di legge anche trasversali della deputata del PD Serafini e anche della deputata del FLI, che la Buongiorno, la Giulia Buongiorno, che ha proposto anche, per esempio, l'inasprimento, che mi sembra molto importante, delle sanzioni e delle condanne, l'ergastolo. Ecco, io su questo sono perfettamente d'accordo, l'ergastolo agli uomini che uccidono le compagne, ex compagne, mogli, ex mogli, con, dice, non più solo l'aggravante di essere moglie, ma anche quando sono semplicemente conviventi o fidanzati. Ci sono già delle telefonate in attesa di questo fantomatico opinionista estemporaneo, che vedremo dopo se appunto riusciremo a farlo rispondere. C'è già all'800 24 00 24 Giuseppe da Lecce. Andiamo subito in Puglia, quindi, Giuseppe, prego. Sì, buongiorno, volevo un attimino intervenire sul... Giuseppe, però devi farmi subito un favore, spegni la radio che così ti sentiamo meglio. Pratica sull'Already Test, sì, e esprimere qualche perplessità riguardo a questa nuova invenzione del direttore Buffer, non so come si chiama. E il problema è che l'accostamento fatto anche al regime di tassazione americano, che paradossalmente in Italia secondo me non potrebbe andare, in quanto c'è da rivedere un po' quello che è il discorso della condanna tributaria, che in America è un reato gravissimo, mentre in Italia noi vediamo i capitali che vanno all'estero e che non sono perseguiti, mentre il discorso degli scontrini da scaricare e da tenere conservati per poi a fine anno portarli in detrazione mi sembra un'arma a doppio taglio, e cioè chi continua a non dimostrare il reddito che percepisce chiaramente continuerà a farlo, perché se io vado a richiedere tutti gli scontrini e dichiaro 500 euro di reddito, è chiaro che non posso portare in detrazione 1000 euro. Non so se il concetto è stato chiaro. Guarda, Giuseppe, quello che effettivamente almeno a me personalmente non è chiarissimo è fino in fondo come funzionerà questo Ready Test e se sarà davvero efficace, come tu temi non sia, che non vada sempre appunto a colpire chi già paga o in qualche modo paga le tasse, dichiara i redditi eccetera eccetera, e chi invece, i più furbi, quelli che i grandi evasori, riescano sempre comunque a farla franca. Giuseppe, ti ringrazio intanto di aver introdotto un tema che io non avevo linkato, perché sono sempre tantissimi, quindi abbiamo anche un tema in più. Giuseppe, ti ringrazio, continua pure il tuo viaggio, che ti sentivo in viaggio. C'è Maurizio da Perugia, sempre all'800 24 00 24. Maurizio. Sì, io chiamavo per questo, per questa notizia terribile di questo ragazzino di 15 anni che questa settimana si è suicidato perché preso in giro da compagni ma anche da professori, perché si laccava le unghie a volte di rosa o metteva dei pantaloni rosa. Sì, il ragazzino che si è suicidato di 16 anni perché a scuola dice che insomma lo maltrattavano, diventava sospettato, insomma, di omosessualità. Ma sospettato, direi, non usiamo questi termini, forse sospettato. No, sospettato, nel ma senso, lo dicevo, no, nel senso che uno lo sia o non lo sia, chi se ne importa, che c'è ancora tanto livello di idiozia in giro. Infatti diciamo, volevo proprio dire questo, perché io da ragazzo tanti anni fa ho avuto lo stesso problema con i compagni eccetera, e pensavo che oggi il mondo fosse cambiato, che ci fossero più possibilità di vivere serenamente anche le proprie diversità. Mi rendo conto che la crudeltà invece di fronte a queste cose è rimasta un po' inalterata. Hai ragione, Maurizio, si continua a dire i tempi, in realtà un po', io non so quanti anni tu abbia, un pochino le cose sono cambiate, se ne parla un po' più con tranquillità, però continuano a esserci aggressioni, lo sentiamo quasi tutti i giorni, no? Contro coppie omosessuali, persone omosessuali, donne e uomini. ci sia anche una responsabilità della politica, che in Italia non riesce neanche ad approvare una legge contro l'omofobia. Sì, c'è una grossissima responsabilità della politica. Della politica e anche, diciamo, anche della Chiesa, quella più conservatrice. La politica, da una parte, che evidentemente non vuole scontentare, diciamo, certi poteri, è più indietro senz'altro dell'opinione pubblica, anche se appunto una legge fatta dal Parlamento sancirebbe ancora di più quello che già tante persone pensano, che appunto ognuno sceglie il proprio orientamento sessuale con estrema libertà, che non c'è niente di male a essere una cosa, l'altra e anche quell'altra. Peccato che ci voglia una legge, ma quando servono leggi vanno fatte. E poi sì, bisogna davvero che questo sia un paese capace ormai di maturare. Il fatto stesso, non solo che non ci sia una legge contro l'omofobia, ma anche semplicemente anche le unioni civili, che sembra una cosa impossibile per questo paese. Adesso i vari candidati del PD le stanno tutte promettendo, vorrò vederli poi al varco chi vincerà. È una cosa, che un provvedimento che gli altri paesi europei quasi tutti hanno fatto, almeno quelli che fanno parte dell'Unione Europea, no? Non mi sembra che ci siano stati morti ammazzati, ferimenti, rivoluzioni, bombe atomiche. Mi sembra una minima legge di civiltà, e anche questo rafforzerebbe nelle persone comuni, nella gente, in quelli che vivono nella società, che i diritti sono paritari, insomma, che quindi nessuno va più schernito o aggredito per le sue scelte sessuali. Capisci, Maurizio? Da dei miei amici ad andare a vedere una partita, e l'insulto più diffuso contro l'arbitro era quello di omosessuale, e quindi mi sono reso conto di colpo, prima di questo episodio, di questo ragazzino, che ancora questo termine, che viene usato poi in modo molto brutto, si dice froccio, si dice cose di questo genere, l'insulto per tutta la partita ho dovuto sentire continuamente urlare questo insulto. Maurizio, io devo dire che allo stadio mi perdonino i tifosi che sono per bene, ma insomma c'è anche tanta gentaglia, e una grossa fetta di idiozia si concentra lì, non solo lì, un po' in tutti i strati della società, ma diciamo che spesso lì vanno quelli che probabilmente hanno tanto tempo da perdere, un bassissimo quoziente intellettivo, quelli che gridano slogan, che sia contro l'arbitro, contro gli altri tifosi, contro i calciatori, insomma. Maurizio, ti ringrazio. Un altro tema di quelli che non avevo elencato, adesso questa puntata è un po' particolare perché l'opinionista estemporaneo, evidentemente Fabrizio Rondolino, che è lo spin doctor di Daniela Santanchè, una delle candidate delle primarie al PDL, evidentemente ha preferito seguire la Santanchè, nonostante avesse preso accordi oggi per essere qui presente a fare l'opinionista estemporaneo. Ognuno fa le sue scelte. E allora però voglio dirvi, anche questa settimana non perdiamo i nostri riti tradizionali, perché cos'è che ci conferma che non ci sono più le mezze stagioni? Non ci saranno più le mezze stagioni, neanche le intere sono un granché. Siamo vicinissimi al Natale, no? E diciamo che più o meno credenti, più o meno pagani, cattolici, cristiani, tutti ci tengono un po' ad addobbare la casa, a fare anche il presepe tradizionale. Bene, il Papa, si parla proprio del Papa, il Pontefice, il Santo Padre, ha scritto, lo sapete, in questi giorni un libro sull'infanzia di Gesù, e ha rivelato, attenzione, tenetevi forte, perché questa è molto molto forte, Papa ha scritto: con Gesù in realtà non c'erano il bue e l'asinello e i pastori non cantarono. Uno crede per non solo per anni, ma per secoli, insomma, fa anche il presepe in un certo modo, il bue e l'asinello non c'erano. Io direi, non credo che il Papa si offenda in questo, mettiamoceli lo stesso, chi fa il presepe lo mette lo stesso, anche perché è un includere anche gli animali che fanno parte costantemente della nostra vita, della nostra storia, e senza di loro non ci saremmo neanche noi. Vorrei sentire adesso all'800 24 0024 Marina da Mantova. Pronto? Marina. Sono io. Sei proprio tu. Ciao Roberta. Ciao Marina. Allora, dunque, sono un po' emozionata perché a me le attese emozionano sempre, comunque. Perché eri in attesa da tanto? No, però è lo stesso. Ma se non ti avessimo fatto attendere saresti meno emozionata, Marina? Sì. Ah, sì. Vabbè, prossima volta, subito quando chiamano. Prego, dunque, Marina. Dunque, io volevo parlare di una cosa un po' particolare rispetto alle primarie del PD. Sì. Io mi sono interessata un pochino in questi mesi sul perché e su perché dobbiamo devolvere chi va a votare 2 euro. E ho chiamato le varie sedi, io abito a Mantova, ho chiamato anche Roma, ma nessuno mi ha risposto in maniera precisa, nessuno mi ha dato una risposta. E dato che i rimborsi elettorali già i partiti li hanno, effettivamente, sì. Ieri sera ho sentito attraverso una radio della Regione Lombardia di Milano una trasmissione a cui partecipava Laura Puppato. Sì, che è una dei cinque candidati. Sì, che è uno dei cinque candidati. E lei, io appunto avevo mandato un sms e lei ha fatto la proposta di devolvere almeno dei 2 euro, almeno 0,50 centesimi, ad esempio per un centro antiviolenza. Benissimo, un'ottima proposta, poche cose, ma insomma qualcosa serve, sì. E però dei 5 candidati solo uno, Nichi Vendola, ha dato il sì, gli altri non c'è stata risposta, così insomma almeno hanno detto. Mm. Ecco, allora così mi sarebbe piaciuto sapere se chi, qualcuno, perché vabbè oggi non c'è l'opinionista, per cui... Ma, cioè, sì, si vede che sta correndo dietro la Santanché, ha detto, ma rispetto a Roberta Giordano, Daniela Santanché, scelgo la Santanché, quindi ecco, sta correndo dietro. Sarebbe tanto piaciuto suo consulente, sì. Avere una tua opinione su questa cosa qua, perché la risposta... alla sede del Partito Democratico di Roma è stata quella, beh, ma se lei non ha i 2 euro può dirlo, non è questione di non avere 2 euro. Beh, questa è una risposta molto misera, diciamo, sì, mi sembra sì. una buona risposta. Guarda, se vuoi la mia opinione, sì. Marina, rimani in onda un attimo, questa questione unisce più aspetti, no? Intanto la sensibilità di candidati a diventare presidente del Consiglio e comunque leader di un partito molto importante come il PD. E in questo caso ha dimostrato Laura Puppato facendo una proposta e Nichi Vendola dando la sua risposta positiva. Gli altri evidentemente avevano altre priorità, oppure non hanno ricevuto la domanda. Non so bene, non so dire, quindi non potrei giudicare. Però unisce questa cosa anche a un'emergenza nazionale fortissima, ne ho parlato all'inizio, questa della strage di donne, 115, il Corriere riporta una donna uccisa in Italia da un uomo ogni 60 ore, fate un po' il calcolo, è praticamente ogni 2 giorni o poco più. Io direi che questa è un'emergenza che non può più aspettare, dei provvedimenti serissimi, fermi, in termini di legge, in termini anche di appunto finanziamento a centri violenza, perché a volte anche le forze di polizia, sentivo oggi una commissaria di polizia che diceva, queste donne non solo fanno un grosso sforzo quando vengono a denunciare, perché non tutte lo fanno, anzi sono una minoranza, ma quando vengono hanno anche bisogno di un posto dove stare per ripararsi, per rifugiarsi. E noi, dice, in Italia ci sono veramente un numero esiguo di posti letto per queste donne, quando ne servirebbero tantissimi. Quindi già questa proposta mi sembra un'ottima proposta da Puppato. Chi voterà la Puppato saprà che metterà in campo queste cose, queste iniziative, a questo tipo di sensibilità. Marina, tu vuoi già esprimere la tua intenzione di voto o no? No, però io vorrei proprio dire a più possibile trasparenza su questi milioni di euro che entreranno in un partito e che quindi venga reso noto come ha intenzione di usarli. Marina, ti ringrazio, anche solo se si tratta di 2 euro hai fatto bene a chiedere, scusate, ma c'è proprio bisogno di questi 2 euro. Grazie Marina, e direi adesso, mentre la nostra Nadia Zammitti continua a prendere centinaia e centinaia delle vostre telefonate, che adesso cercherò di rispondere a tutti, sì, abbiamo il collegamento con un altro pianeta, sì. Riflessioni da Marte. Che settimana movimentata, se potuta osservare in questi giorni da quassù, da Marte. Soprattutto col telescopio puntato sullo stivale italico, si è scoperto che non è vero che in Italia la politica è muerta, stecchita, defenestrata dai tecnici e schifata dalla gente. È parso infatti in questi giorni lampante che c'è grande passione in realtà per l'asse politica. Non solo i fantastici 5 del PD, che fra rottamatori e usato sicuro se ne sono dati di santa ragione, ma a confermare questa incontenibile, rinata passione straripante, avete veduto che eccezionale assembramento di candidati si sfidano per le primarie del PDL? Difficile fare al momento un calcolo preciso di quanti siano, perché ogni poco uno se ne aggiunge, un altro se ne va, ma saranno circa una decina gli sfidanti del PDL. Così tanti che più che le primarie, per votarli e selezionarli, sarebbe meglio ospitarli all'Isola dei Famosi col televoto. Ma non finisce qui la strabordante voglia di partecipazione, di essere protagonisti delle sorti del paese, artefici del bene collettivo. Ed ecco che i parlamentari, per ridurre il numero dei parlamentari, prospettano una commissione con stipendi da parlamentari. Ovvero, c'è stato un primo sì a un disegno di legge per eleggere una commissione di riforma della Costituzione e sarebbero quindi da aggiungere per formare questa commissione, questa è la straordinaria idea di deputati e senatori, altre 90 poltrone oltre le loro inossidabili, con l'aggiunta quindi anche a spese dei contribuenti di altri 90 stipendi da deputati, indennità incluse. Ben andate o no e non tornate più. E non tornate più, mai più, mai più. Ben andate, oh no. E non tornate più, mai più. Ben andate. E non tornate più, mai più, mai più, mai più. Vi siete mangiati tutto quello che c'è, finché non ci resta più niente perché ci avete ridotti così. E ora andate via di qui, sì. Eccoci di nuovo insieme, ringrazio anche, di solito non li leggo ma ci sono diversi messaggi molto belli, devo dire al 349-238-6666, un numero che non dico mai, infatti l'ho letto velocissimamente perché sennò tra telefonate, le agenzie, i collegamenti vari eccetera, dopo non abbiamo più tempo anche proprio per le vostre telefonate, preferisco sentire le vostre voci. Per esempio sempre il numero verde 800-24-0024, quella di Giacomo da Torino. Giacomo. Grazie. Grazie a te. Buongiorno. Buongiorno. Buongiorno a tutti, volevo intervenire rapidamente con due osservazioni sull'attuale settimana politica. Noi abbiamo constatato come intorno all'idea delle primarie del PDL ci sia tutto questo assembramento, no, di partecipazione e finalmente se il PDL riuscirà mai a fare le primarie, nonostante che il suo fondatore naturalmente si veda spiazzato, abituato ad avere un partito azienda di cui era il padrone, ora chiaramente l'idea delle primarie non è coerente con il sistema precedente, però è un bene per la democrazia italiana se il PDL riuscirà a fare le primarie e non accadrà qualcosa di imprevisto, imprevedibile. Guarda, adesso sembrerebbe Giacomo era da un lato. Sì. Dall'altro, attenzione, lei ha fatto delle giuste osservazioni circa l'incapacità dei parlamentari di riformare il Parlamento, ma questo, il difetto sta nel manico, l'ho già detto altre volte, è un chiaro contrasto di interessi. Certo, un conflitto di interessi. Non si può chiedere al deputato di fare fuori fare se stesso. Karakiri. No, dobbiamo immaginare un'assemblea costituente che faccia solo la riforma costituzionale e poi si va a casa. Sì, ma infatti la proposta è di questa commissione, no, che dovrebbe 90 persone. Tertium non datur, senza assolutamente. Niente. Vediamo niente, cioè nel senso. Giacomo, dimmi una cosa, visto che parlavi delle primarie del PDL, tu tra i vari candidati che sono parecchi, chi voteresti? Ma prima di tutto voglio sapere anche cosa pensi della dichiarazione ieri di Angelino Alfano, il segretario del PDL, che dovrebbe essere anche il candidato favorito, che ha detto se ci saranno degli inquisiti, si riferiva soprattutto a Proto, l'immobiliarista, tra i candidati io non mi candido. Che ne pensi di questa dichiarazione? Allora, premetto che io sono un elettore del PD, però sto facendo tifo affinché Alfano, il PDL, cresca per un futuro democratico italiano normale, per cui l'affermazione di Alfano mi ha fatto molto molto piacere, spero che riesca a tenere duro e che non lo costringano a fermarsi indietro. Giacomo, senti, c'era però qualcuno che polemizzava in questi giorni, dicendo che, ieri soprattutto, insomma, dicendo che potrebbe essere una affermazione opportunistica questa di Alfano, perché in realtà è sempre stato circondato da inquisiti nel suo partito, a partire da Cosentino fino ad arrivare a Berlusconi, anche solo il processo Rubi lo vede inquisito. È vero. Quindi? È vero, però finora Alfano non aveva neanche il diritto di parola. Da ieri ha acquistato un diritto in più. Questo dico. Senti, può anche darsi che sia strumentale, lo vedremo. Però dici cerchiamo intanto di ha detto la sua. Cerchiamo di pensare bene e speriamo che vadano avanti anche loro. Giacomo, visto che hai detto che sei un elettore del PD, hai voglia di dire chi voterai domani, se voterai? Io domani andrò a votare, però ti dico sinceramente che mi piacerebbe votare per tutti, perché hanno dei valori, degli aspetti molto significativi per diversi punti di vista. Molto probabilmente voterò Renzi. Per questo gusto di giovanezza, ed è un rischio, intendiamoci, perché i meriti di Bersani non possiamo nasconderli. Però ecco, voglio fare una scommessa. Sentiamo. Forse un poco irrazionale, un poco emotiva, non molto razionale, ma probabilmente voterò Renzi. Senti Giacomo, il fatto che oggi per esempio il giornale, che poi il giornale per cui collabora Fabrizio Rondolino, che oggi ha dato il bidone proprio plateale, appena lo vedo lo strangolo, però sono contenta che ci siate voi ascoltatrici e ascoltatori, che avete finalmente, diciamo, in questa puntata un po' più spazio del solito. Il fatto che il giornale titoli il PD avrà un senso solo se vince Renzi, che ti fa pensare? Sai che tanti finora hanno detto, ma insomma, naturalmente no. I detrattori di Renzi hanno detto, Renzi non è tanto di sinistra, addirittura Vendola in questi giorni ha detto un Renzi di sinistra è una cosa contro natura. Ma no, siamo in campagna elettorale, chiaramente, quindi ci sono delle esagerazioni. La posizione del giornale è Cicero pro domo sua, quindi chiaramente deve smontare, probabilmente Renzi non vincerà. Perché ragionandoci l'anima, come dire, ex PC è prevalente rispetto all'anima cattolica all'interno del PD. Secondo i miei calcoli la destra cattolica che è confluita con Berlusconi non conta più granché, ma all'interno del PD la sinistra cattolica è minoranza rispetto alla sinistra di tradizione comunista, no? Giacomo, per chiudere, che fai di mestiere? Mi sembri un analista abbastanza attento. Io faccio in questo momento il dirigente scolastico, ho fatto 37 anni l'insegnante. Che ne pensi delle manifestazioni degli studenti oggi a Roma? Beh, c'è una dose di, anche lì, cose giuste, sacrosante, perché io l'ho vissuta sulla pelle degli insegnanti. Ho dovuto fare dei bilanci per la nostra scuola da far piangere, ho dovuto mettermi sul mercato, andare a fare le convenzioni con i supermercati per poter portare 4 euro per comprare un PC o cose di questo tipo, cose che inizialmente mi facevano anche vergognare un po'. Però ecco, per difendere la scuola pubblica l'ho fatto. Per fare un servizio migliore, le famiglie lo hanno capito, cerchiamo di tenere duro. Grazie Giacomo, e con questo sono demotivati, però, perché specialmente il governo precedente ha preso a calci sui denti insegnanti, scuole, tutti, per cui ora bisogna ricostruire la fiducia da parte degli negli operatori scolastici. Giacomo, tu lo dici naturalmente da addetto ai lavori, speriamo che chi debba avere orecchio da intendere intenda gli altri, come si dice, in sacco a pelo. Leggevo, ecco, finalmente ieri si parlava di prove tecniche di intesa tra Berlusconi e Maroni per quanto riguarda la presidenza della Regione Lombardia, il candidato, insomma, chi si candiderà da parte del centrodestra a guidare la Regione Lombardia. Ebbene, la questione pare definita. Spero, dice Berlusconi, che si arrivi a una candidatura comune tra PDL e Lega Nord, magari con lo stesso Maroni. Lo ha detto Silvio Berlusconi, che a margine della sua visita al centro sportivo di Milanello, a Carnago, vicino Varese, ha risposto di sì a chi gli ha chiesto se Maroni potrebbe essere un candidato comune in Lombardia. Quindi praticamente è un'investitura. Che fine fa Albertini, che ex sindaco di Milano del PDL, che doveva essere un po' il candidato del centrodestra, insomma, a meno che non farà una lista per conto suo, sarà Montezemolo o qualcun altro, non si è ben capito, l'UDC, comunque insomma questa sembra un'investitura ufficiale. Sempre all'800 24 0024 dicevamo Lucia da Vicenza. Buongiorno Roberta. Buongiorno Lucia. È una questione che mi porto dietro da quando ho capito cosa vuol dire avere un'oppressione, nel senso che io sono di religione cattolica, però ultimamente non professo più, anche perché ce l'ho veramente con il potere della Chiesa, che hanno hanno fatto, cioè hanno tenuto la condizione delle donne, cioè è una cosa improponibile. Io dico, dovrebbero domandare scusa alle donne, perché veramente hanno usato un potere sulla donna, che adesso tutte le leggi che riguardano le donne, loro sono lì pronti a bloccare tutto, però quello che gli fa comodo lo tengono nascosti, perché la sessualità è una cosa veramente prorompente. Però non lo so, io veramente sono sfiduciata, anche perché ho visto che sono di tendenza la Chiesa, il potere della Chiesa era in tendenza collegata con un certo potere politico, che se ne dica, sono i primi che fanno le schifezze, diciamo. E allora io vorrei proprio che ci rendessimo conto di essere liberi da questi giochi, di essere liberi di poter giudicare e fare come, in realtà, come un cittadino libero, senza quella cappa opprimente che ci tiene proprio voglia di controllo. Ecco. Ti ringrazio, Lucia. Di niente. Grazie. Ciao Lucia. Ciao. Claudio da Venezia. Claudio? Sei in un camion? In un tunnel? Un sottomarino? Claudio? Sei un sottomarino. Pronto? Claudio, ti sei dimenticato che il telefono a fianco mi hai chiamata, Claudio? Si sente il suono dell'autostrada. Oreste da Piacenza. Tu ci sei, Oreste? Sì, buongiorno. Ah, meno male. Buongiorno a te. Dici, Oreste, qual è la tua notizia? Io stavo ascoltando la trasmissione, no? Sì, e fai molto bene, certo. Sì, esatto. Ho sentito una persona che si lamentava dei 2 euro, no? Sì. No, forse voleva sapere, voleva sì, sapere qual era la finalità. È vero, sono 2 euro, eccetera. Io penso che per organizzare queste cose comunque ci sia un costo. Senz'altro, però comunque parlava, dice, dei rimborsi elettorali che sono già cospicui. Esatto, è vero, questo è vero. Però vorrei dire questo. Se una questo è indicativo di una certa mentalità di certi italiani. Cioè, se una persona per la propria voglia politica di esprimersi, di cose, di andare a votare, no? Si lamenta di 2 euro, quando un pacchetto di sigarette costa 5 euro, quando andare a prendere un aperitivo al bar costa 4 euro, no? No, ma non pensavo che, scusami Oreste, che il problema di Marina, se non sbaglio, fosse questo. Non mi ricordo il nome, però è indicativo di una cosa, no? Io sono stato abituato per formazione, a un certo punto una volta mi hanno detto, guarda, se tu hai qualcosa da protestare è inutile che parli, mettilo per iscritto, vedrai che ti danno una risposta, no? E in Italia secondo me c'è troppa gente che parla. I 2 euro significa solo mettersi un attimo in gioco con una cifra insignificante. Avessero chiesto 20 euro, capito? Ma va bene, adesso va benissimo. Ma questa è io per la mia voglia politica, eccetera, io do i 2 euro, vado. Senti, a votare. Senti, con la tua voglia politica, Oreste, chi voti domani? No, io sono abbastanza, diciamo, cosa, ho cominciato a votare nel 61, e io di tutta la classe politica italiana rispetto 3 persone. Uno è De Gasperi. Beh, diciamo che è un po' trapassato, sì, e va benissimo. Come è però un esempio, no? Sì, un buon esempio. Dice di... Però un esempio. Un'altra persona che rispetto è Giorgio Almirante. Anche lui, diciamo, fa parte di... Esatto, è un'altra persona che rispetto, è un esponente del Partito Comunista che... Forse era Berlinguer, però ho un attimo ho un lapsus, che ha detto, io mi sento più sicuro sotto l'Alleanza Atlantica che sotto il Patto di Varsavia. Credo che fosse Berlinguer. L'onestà delle persone, no? Senti, Oreste, il problema è però che sono tutti morti e possono essere dei grandi esempi, però essere lì sul piedistallo e dire vogliamo assomigliare loro, ma oggi tu hai parlato di questi 2 euro che dice chi se ne importa, se c'è la passione politica andiamo a votare. Quindi, alla fine, paghi questi 2 euro, voti qualcuno o no? No, io per carità sono Lega Nord. Ah! Io vivo al Nord. Io penso che se dobbiamo salvare l'Italia, per salvare l'Italia prima bisogna salvare il Nord. Poi il Nord può salvare l'Italia. Io salverei tutto insieme, Oreste. Ma in ogni caso queste sono opinioni. Senti, ma sei contento? È una tecnica, cioè tu tecnicamente cerchi di salvarli tutti insieme. Io dico che se prima non si salva il Nord il nord non potrà, cioè l'Italia non si potrà salvare. Io dico invece che se non si salvano un po' tutti insieme, distribuendo un po' energie, risorse, tempo, quello che vuoi, provvedimenti eccetera, uno finisce sempre più a fondo, l'altro è, dopo è difficile recuperare quello che va più a fondo. Comunque Oreste, dimmi una cosa, sei contento, notizia che ho letto poco fa, che Maroni è praticamente il candidato ufficiale anche da parte di Berlusconi per la regione Lombardia? Guarda, lo vedo di più come primo ministro. Ti piace manco lui. Lo vedo in una posizione superiore. Vabbè, quindi possiamo accontentarci, che dici? Potrei vederci Salvini, come se dobbiamo dare alla Lega Nord e Maroni primo ministro. Ma non lo so, ecco, il prossimo governo, se ci sarà posto per Maroni. Adesso cerchiamo di capire. La speranza non muore mai, se uccidiamo le speranze siamo finiti. Va bene Oreste, se non sbaglio sì, il nostro appuntamento immancabile con il nostro Don Severino da Potenza, che ogni volta ci lascia un po' scombussolati. Don Severino! Ciao Roberta, ciao Roberta. Dunque, non so se gli spettatori hanno assistito a Servizio Pubblico, dove l'onorevole Brunetta, non molto onorevole, parlando con Vendola, ha detto: io mi eccito in maniera normale. Questa cosa mi era sfuggita. Sì. Esatto, questa affermazione dà una spiegazione a quello che succede in Italia, cioè a dire le donne che vengono ammazzate da pseudoeteri, i ragazzi che si suicidano perché vengono indicati nelle loro tendenze. Io sono rimasto impressionato dalla telefonata della signora Lucia, alla quale io esprimo perdono e solidarietà, ma deve sapere la signora Lucia che ha perfettamente ragione, la causa di questa violenza sulle donne, questi ragazzi che si ammazzano, hanno due realtà, alcuni politici se non tutti e la Chiesa, negli uomini della Chiesa che la maggior parte fanno le stesse schifose cose, l'unica speranza è quella che questo ragazzo, diciamo che è più una questione di cultura, ecco, poi ogni tanto ce n'è qualcuno insomma che fa cose nefande, più una questione di cultura dominante, ecco, che non si riesce a scalfire. Don Severino, capito, questo ragazzo che è andato sicuramente in paradiso, per chi ci crede avrà trovato Dio che gli ha dato i cosmetici per truccarsi e le ha fatto trovare l'anima gemella. Ringraziamo che almeno Dio non è come noi. Grazie Don Severino, questo è Don Severino. Ed invece adesso ci propinquiamo al nostro appuntamento con la nostra linguista, la nostra Valeria Della Valle, alla quale vorrei sottoporre, proprio legandomi anche a cosa aveva appena detto Don Severino, recitando appunto le donne. Vi ho ricordato che domani è la giornata internazionale sulla violenza contro le donne, del fatto che l'Italia è sempre più un'emergenza incredibile davanti alla quale non si può più rimanere indifferenti. Vorrei sottoporti questo termine che ormai si usa da un po', cara Valeria, femminicidio. Certo, volentieri. La parola femminicidio si è diffusa nella nostra lingua solo a partire dal 2001 e ormai però è registrata in tutti i buoni dizionari della lingua italiana. E prima, ecco, questa è la domanda che ci viene spontanea, prima sembra impossibile, però non esisteva nella nostra lingua una parola per dare il nome all'uccisione di una donna, specialmente quando il fatto di essere donna costituisce, diciamo, l'elemento scatenante dell'azione criminale. Prima esisteva solo uxoricidio, ma naturalmente uxoricidio indicava l'omicidio del coniuge, della coniuge, quasi che al di fuori del matrimonio gli omicidi delle donne non esistessero. Tra l'altro femminicidio ricalca la corrispondente parola inglese, quindi tutto è nato nella lingua inglese, che è feminicide, che si è diffusa dal 1992, quando vennero violentate e uccise più di 4.000 donne al confine tra Messico e Stati Uniti. E questo a dimostrazione del fatto che le nuove parole, i neologismi, sono indispensabili, direi, per descrivere la realtà, anche quella più brutale. Quindi non sono le nuove parole a essere brutte, tutt'altro, le nuove parole servono e sono le cose che devono essere descritte, che sono terribili, come in questo caso l'uccisione delle donne. Grazie cara Valeria. Grazie, arrivederci. Grazie Valeria Della Valle. E adesso ritorniamo alle vostre telefonate nei pochi minuti che ci mancano. 800 24 00 24. Prima di sentire Antonio da Pesaro, mi viene anche da fare questa domanda. Sapete che in questi giorni Napolitano, dopo che in tanti hanno tirato la giacchetta di Monti, no, vieni da noi, no, vieni da noi, sarai il candidato presidente del Consiglio con la nostra lista, no, lo sarai del nostro movimento, deve continuare il tuo lavoro, eccetera, eccetera, quindi noi ti candideremo, cioè, ha detto, mi pare l'altro ieri, non più tardi dell'altro ieri, Monti non è candidabile essendo un senatore a vita. Io dico, dopo mesi che tutti se lo tirano a destra manca, persino Berlusconi aveva detto tempo fa, prima di cambiare idea, che lo voleva come possibile candidato, come presidente del Consiglio. Dico, Napolitano non lo poteva dire prima questa cosa, a me è sembrata una cosa un po' strana, poteva svegliarsi appena qualcuno aveva fatto accenno a questa possibilità, dire no, guardate, inutile che state lì a insistere, perché tanto non può candidarsi. Come mai improvvisamente l'ha fatto? Leggevo ieri un commento di Monti, che a Bruxelles, dove era per il vertice europeo, aveva risposto a un giornalista che aveva chiesto ma che ne pensa di questa dichiarazione, di questa specie di veto, anche se vogliamo, di Napolitano, e lui ha detto no comment. Già questo dice molto. Claudio da Venezia, sì, Claudio, pronto? Sì, buongiorno. Tu chi eri, il viaggiatore di prima che si sentiva solo il suono dell'autostrada? Ci eravamo persi. Ah, beh, ci siamo ritrovati. L'importante è questo. Io volevo parlare un attimo delle elezioni delle primarie del PD. Bene, sì. Ho trovato i candidati interessanti, diciamo, nelle loro proposte, anche se speravo che nei dibattiti fra di loro ci fosse un po' di più, non dico astio, ma insomma che ci fosse una differenziazione fra gli altri, sembrava quasi che non volessero farsi del male. Ma diciamo che per il resto è già una cosa utile, soprattutto perché mi sembra che abbia stimolato anche il PDL a questo finalmente senz'altro. Ad arrivare a queste primarie, certo. Ad avere qualcosa di diverso, insomma, ad avere non qualcosa di importo, ma anche dall'altra parte che ci siano delle votazioni, come andranno a finire vedremo. Diciamo che io andrò a votare, sono indeciso tuttora sul tipo di voto da dare, fra Renzi e la Puppato. Puppato perché è della mia regione, questo sarebbe questo, comunque anche perché mi piace. Ecco, spero non solo perché è la tua regione. Ecco, conosciuto, ho avuto modo di parlarci. È un'ottima persona, sì. Pronto? Sì, dicevo, un'ottima persona, effettivamente ha avuto pochissima visibilità, mi pare che meriti qualcosa di più. Esatto, diciamo che avendo fatto la scelta così un po' all'ultimo momento, un po' all'improvviso, sembrava forse ha perso un po' di slancio, forse anche di visione da parte delle persone. E Renzi, diciamo, invece è quello che ha un po' stimolato il PD in tutto, diciamo, quello che può essere, ed è forse anche forse giovane, forse chissà, speriamo che possa dare qualcosa di diverso, cioè è un'idea che Claudio, allora ti lascio riflettere, ti ringrazio perché siamo proprio vicino alla chiusura, ti lascio riflettere e poi vedere tu tra uno e l'altra chi preferisci. Ci sarebbe Antonio da Pesaro, ma devi fare proprio uno spot, Antonio, perdonami. Sì, molto veloce, guarda, per dirti che non dico per chi andrò a votare, però cito Matteo Renzi che poco fa in un'intervista in televisione ha detto è un'occasione importantissima, non lasciamocela sfuggire, perché chi non va a votare domani poi non si deve lamentare per 5 anni. Beh, io credo che sia importante, vorrei che tutti quelli che oggi sono a Roma in piazza a contestare, benissimo, facciano questo, però domani facciano un piccolo sforzo e magari si prendano carico di quei 2, 10, 5, 20 minuti per andare a votare e contribuire in maniera concreta a un cambiamento. Dico solo questo. Grazie caro Antonio, è stato molto sintetico e vi dirò che finalmente in chiusura le grandi riforme, si parla sempre delle grandi riforme in Italia, no? Bisogna cambiare le cose, con grandi riforme strutturali, ebbene sì, finalmente una riforma è arrivata. Dopo 70 anni si cambia, c'è la riforma del condominio, sia gli animali, riscaldamento fai da te, arriva l'amministratore qualificato. Vi ricordo che c'è la pagina Facebook di Non ci sono più le mezze stagioni, da Roberta Giordano, Sereni Orizzonti. A tutti.